Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, sono tre gli argomenti dell'appuntamento di oggi. Il primo è lo psicodramma che Firenze sta vivendo da quando stamane il Corriere dello Sport ha annunciato a tutta pagina, a tutta copertina, che i Della Valle lasciano la Fiorentina. Notizia che ha trovato ampi e autorevoli riscontri, a cominciare dalla tifoseria organizzata, dai forum, dei siti web. Sto leggendo su un'agenzia ANSA che sono intasati da stamane dai messaggi, da dirette continue delle radio fiorentine locali e dallo stato d'animo di una città che si è ritrovata abbastanza sotto shock per questa vicenda. Lo stesso sindaco di Firenze, Matteo Renzi, rispondendo a una domanda al termine di una sua lezione nell'aula magna dell'Università Fiorentina, ha detto: ho parlato stamattina con Diego Della Valle, come avevo fatto già la scorsa domenica, spero che lui rifletta, ma bisogna rispettare i sentimenti di tutti, che è evidentemente una conferma non da poco. Ripeto, rispetto a questa notizia pubblicata stamane nel Corriere dello Sport, che ha intossicato la giornata fiorentina. Il secondo argomento riguarda la Juventus e in particolare Roberto Bettega. Vi leggo una mail firmata da un ascoltatore, ed è una mail campione, perché sono tanti i messaggi, direi tutti di questo stesso tenore, che sono arrivati in redazione tra ieri sera e stamane. Sono un tifoso juventino, è firmata con nome e cognome, Giuliano Dalmagro, Belluno. Sono un tifoso juventino che ha ascoltato prima con perplessità e poi con disgusto le parole di Bettega nei confronti dei teppisti, juventini che si cenano dietro l'etichetta di tifosi. Penso che la prima cosa che si è persa nel calcio sia l'educazione. Se è vero che al tifoso è concesso lamentarsi e protestare, come Bettega ha detto, sicuramente i gesti di domenica scorsa sono andati oltre e avrebbero dovuto essere condannati pesantemente. Alcune altre considerazioni, per finire con la seguente: la mia bella giornata di juventino si è conclusa in serata ieri con apprendendo della squalifica inibizione a Bettega fino al 20 aprile per frasi irriguardose, che poi sono insulti per la verità, perché ho letto bene le motivazioni, insulti tucuri indirizzati all'arbitro durante l'intervallo di Juventus-Atalanta. Se questa è la dirigenza che abbiamo, conclude Giuliano Dalmagro da Belluno, quelli sono anche i tifosi che si meritano. Il terzo argomento, che ha la precedenza assoluta degli altri due e di altro ancora, poi parleremo insieme come sempre nel corso della puntata, è la doppia serata di Coppa oggi e domani per i quarti di finale di Coppa Campioni. Buongiorno Fabio Tavelli. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Mi viene da pensare che se Robben non avesse fatto quello che ha fatto contro la Fiorentina, forse il problema si sarebbe spostato un po' più avanti per la Fiorentina. Invece ci troviamo a commentare il Bayern di Monaco, che il problema della cittadella non ce l'ha, ha uno stadio meraviglioso che si chiama Allianz Arena. E sì, il Bayern di Monaco e Robben, che prima aveva già liquidato la Juve a domicilio, sì, ma almeno lì con pieno merito, no? Mentre invece lo stesso non si può dire dell'ottavo di finale. Vero. Allora, il menù di stasera presenta Bayern Manchester United e Lyon Bordeaux, domani sera Inter CSK a Mosca e Arsenal Barcellona. Non so più dove stamattina, da qualche parte ho letto che il pronostico che parrebbe scritto Manchester Lione, Barcellona e Inter sembra un po' troppo facile e qualcosa succederà. Tu che ne dici? Ma dipende, perché già qualcosa è successo in questa Champions League, perché è uscito il Chelsea, perché ci troviamo il CSKA a Mosca ai quarti di finale, perché il CSKA ha eliminato una squadra come Siviglia che a dicembre, quando c'era stata la composizione, era una squadra accreditata di altre velleità. È una Champions League anomala, non c'è più il Liverpool da un po' di tempo, insomma è lo stesso Bayern di Monaco, c'è però per grazia ricevuta, quindi molte sorprese ci sono già state, quindi non escludo che questa volta possa andare come dovrebbe. È anche vero che Mourinho, quando vinse la Champions League col Porto, arrivò in finale col Monaco, e quella fu una Champions League completamente anomala, con risultati completamente strani. A parer mio le sorprese hanno già dato, nel senso che mi aspetto dei quarti di finale un po' più regolari. Ora, intendersi più regolari significa che il Manchester United batterà e supererà il Bayern di Monaco, perché è nelle cose, perché la squadra di Ferguson è molto più forte di quella di Van Gaal. L'Inter è strafavorita contro il CSKA. Sulle altre due aspettiamo, perché l'Arsenal è a livello di espressione di gioco un piccolo Barcellona, quindi può essere che sia sfavorito contro l'avversario adulto, però è vero che se il Barcellona abbassa un po' i giri del suo motore è battibile dall'Arsenal. E poi Lione-Bordeaux, quella delle due che passerà, sarà comunque una sorpresa. Quindi diciamo che la quota sorprese comunque sarà rappresentata, perché ci sarà una francese in semifinale, certo. E questo secondo me vale già tutto. Già può bastare questa. Sì, no? Credo di sì, auguriamoci che sia questo per l'Inter soprattutto. Senti, restiamo alle due di stasera in particolare, cioè Bayern-Manchester e Lyon-Bordeaux. Allora, è ovvio che la partita clou è la prima dal punto di vista della suggestione, probabilmente anche della potenziale finalista, ma è anche vero che la seconda però è talmente inedita che un suo fascino ce l'ha. E tra l'altro in Francia, io ricordo derby di Coppa in Italia, un Inter-Milan, un doppio Inter-Milan di non molti anni fa, ricordo dei due volte, dei Fiorentina a Juve in passato, insomma non è inedito, li ricordo molto avvelenati già alla vigilia, mi pare che in Francia non facciano eccezione. No, io sto leggendo l'Equipe tutti i giorni da un po' di tempo, lo faccio quasi sempre, ma ulteriormente in questo periodo c'è del veleno forte, ma anche su schermaglie che sono molto di cortile, perché c'è stata molta polemica sul fatto che il Bordeaux sia stato costretto a giocare la finale di Coppa di Lega, persa tra l'altro contro il Marsiglia domenica sera, invece il Lione ha avuto un giorno di più per riposarsi, insomma cose classiche, no? Schermaglie che ogni tanto quando accadono in Italia noi diciamo ecco siamo i soliti, invece succedono anche da altre parti. Sì, io penso che la differenza sia questa, poi correggimi se sbaglio, che da noi sono quotidiane, di là altrove il peggio di sé lo danno almeno una volta ogni tanto. No, ci si stupisce anche perché magari i francesi a questo livello ci arrivano poco, anche gli italiani per la verità negli ultimi anni. Sì, è vero, sull'Equipe fa più specie, poi è anche possibile che la stessa stampa francese sia un po' meno alla ricerca di questo, cioè che ne prenda atto magari a volte anche con un po' di fastidio, mentre invece magari quella italiana ci puccia un po' più il biscotto. Può essere, dipende molto dall'opinione pubblica, penso che l'opinione pubblica, una certa opinione pubblica italiana vada abbastanza a nozze e le faccia piacere essere stimolata su questi temi, un altro tipo di opinione pubblica magari è meno sensibile ed è più attenta alle cose di campo, può essere. Direi di sì. Ma intanto è arrivata una notizia da Buenos Aires, molto singolare da una parte e insomma, se non proprio drammatica, quasi dall'altra. Maradona è stato operato d'urgenza la scorsa notte per essere stato morso al viso da uno dei suoi cani. Uscirà nelle prossime ore dalla clinica dove è stato ricoverato e dove, appunto, è stato sottoposto a intervento chirurgico, perché la prima medicazione a cui era stato sottoposto non era sufficiente, quindi non una disavventura da poco quella del vecchio Diego. Con Fabio Tavelli, stamane non soltanto i quotidiani sportivi, anche il Corriere della Sera, per esempio, ha dedicato una robusta apertura con giro di pagina a questa rivoluzione autentica che c'è nei campionati di tutta Europa, perlomeno in quelli che contano. Abbiamo passato anni di dittatura, non so, Lyon, no Fabio, per dirne una, piuttosto che il Real una volta, il Barça l'altro, e poi aiutami tu a ricordarne il Bayern in anni più lontani, in Italia campionati vinti presto dalla Juve prima, dall'Inter poi, eccetera, e di colpo Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia si ritrovano con delle volate a tre o più che sono finalmente almeno emozionanti. Sì, c'è un filo conduttore che è clamoroso, perché a parte in Spagna dove sono solo due ce ne sono tre o più di tre, in Italia e in Inghilterra sono tre, in Francia sono anche di più, in Germania in realtà secondo me sono due perché il Bayer Leverkusen lo vedo abbastanza bollito. Comunque sono delle volate inattese, inaspettate, ma inaspettate alla vigilia, nel senso che l'Italia aveva una chiara favorita che era l'Inter e che ha per due terzi del campionato dominato, salvo poi rallentare, queste sono storie che conosciamo. Certo. Dalle altre parti l'equilibrio è un po' più sovrano. Io penso che ci sia ovviamente molto di positivo in tutto quello che stiamo dicendo, qualcosina in negativo esiste, perché comunque sono sempre loro, a parte in Francia, ad essere protagoniste. In Francia da un lato possiamo dire che è un campionato bellissimo perché è molto equilibrato, dall'altro se andiamo a vedere il numero di punti complessivi dimostrano che forse la media è un po' più verso il basso, ci sono delle neopromosse che sono addirittura in lotta per il titolo, questo non accade praticamente mai, per converso in Spagna abbiamo un dominio totale eccessivo, eccessivo, quasi fastidioso, al punto che le terze forze sono completamente scomparse in Spagna, perché il Siviglia è in rottura prolungata, può andare in Champions League il Mallorca, che è una squadra per carità buona, però ha vinto 12 partite su 13 in casa prima di affrontare il Barcellona. Vediamoci, va bene tutto, ma non troppo, il Valencia non è più un fattore, il Deportivo La Coruña, chi l'ha visto ormai non è più competitivo. No, sto leggendo i numeri, il Valencia è staccato di 21 punti da Real e Barça, che sono in testa alla pari. 21 punti sono 7 partite. Cioè, quindi... sono 7 partite, ma tra l'altro va bene, Barcellona e Real Madrid giocano un calcio fantastico, però tu puoi essere sotto di 8-10 punti, perché magari le partite con le altre, con tutte le altre squadre, le puoi vincere. Io ho visto nel weekend sia il Siviglia che il Valencia prendere degli schiaffi da Villarreal e Saragozza, ma schiaffi veri. Cioè, queste squadre sono squadre ormai clamorosamente in difficoltà. Il Real ha vinto 24 partite, ha fatto 2 pareggi e ne ha perse 3. Il Barcellona ne ha vinte 23, ne ha pareggiate 5 e ne ha persa 1. La differenza reti è spaventosa. Il Real ha 81-26 e il Barcellona ha 71-18. Sono numeri veramente da dittatura, no? Tornano a merito loro, ma nello stesso tempo non sono fatti, no, per l'interesse di un campionato, se non di una diarchia, inteso come una... così, appunto, un duello infinito. Il campionato spagnolo si deciderà nel classico tra Real e Barcellona, salvo poi che una delle due non si distragga, perché se dovesse finire in pareggio a quel punto lì diventeranno decisivi altri fattori, però diciamo che quella sarà una sorta di finale, perché chi la vincerà con tutta probabilità avrà vinto il titolo, quindi tutto questo è molto bello, salvo il fatto che quando giocano Real e Barcellona 9 volte e mezzo su 10 il risultato già lo conosci, poi magari ci si arriva anche in maniera tortuosa, perché non è che il Barcellona sempre abbia dominato, quando domina lo fa seriamente. Anche il Real Madrid ha vinto un derby contro l'Atletico andando sotto e comunque soffrendo fino alla fine, abbiamo visto la sua rimonta contro il Siviglia che forse è stata sopravvalutata alla luce poi dei risultati del Siviglia delle settimane dopo, però anche quando fanno fatica poi questi vincono sempre e insomma, ci sarà un motivo. Certo. Fabio, un'occhiatina agli italiani in giro per il mondo. Allora, Mancini ieri sera, per esempio, però anche Giuseppe Rossi, perché comunque in chiave mondiale si può cominciare a discuterne. Io ti ammolerei anche un Molinaro, comunque, perché comunque Molinaro quest'anno ha fatto una serie di discrete o buone figure nello Stoccarda e avendo vinto sabato in casa del Bayern con Molinaro buon protagonista, Sì, questo può voler dire due cose: una, che la Juventus forse ha lasciato andare via quello sbagliato, cosa peraltro possibile, oppure che che anche il campionato della Bundesliga esprima una cifra non sempre così elevata. Io credo che Molinaro sia un giocatore che a questi livelli comunque ci possa stare, cioè nello Stoccarda non fa assolutamente una cattiva figura. Sono anche contento per lui perché mi sembra una persona molto seria e che si applica moltissimo. Questo è oggettivo, questo quando è l'ho sentito parlare l'ho sempre ascoltato con grande interesse. È più interessante ovviamente in chiave nazionale il gol di Giuseppe Rossi. Giuseppe Rossi ha passato un po' di traversie personali, un po' di traversie legate a infortuni, credo che sia un talento clamoroso sul quale penso anche che Lippi sia d'accordo con noi da questo punto di vista, e che un Giuseppe Rossi in condizioni normali in Sudafrica ci andrà. E anche il Villarreal sta vivendo l'ennesima stagione un po' controversa, nella quale parte con certi obiettivi, poi cade, poi risale. Insomma, la continuità del sottomarino giallo in questa e nelle ultime stagioni non è mai stata altissima. Ho visto Mancini strattonare David Moyes nella partita contro l'Everton e la cosa non è piaciuta moltissimo alla Football Association. E poi credo che l'italiano più sugli scudi in questi giorni sia Zola, perché Zola ha perso 6 partite su 7 e la società di fatto non lo ha cacciato quando sembrava che fosse abbastanza normale cacciarlo. Alla fine addirittura ha fatto decidere a lui, cioè gli hanno detto prenditi 2 giorni, torna a casa in Sardegna e poi facci sapere se vuoi continuare ad allenare la squadra. Lui lo ha fatto, è tornato in Sardegna, ha telefonato, ha detto io me la sento e quindi ci sarà ancora lui. Certo. questa mi sembra una notazione anche di maturità nei confronti di proprietari che spesso sono improvvisati, perché i due proprietari del West Ham non hanno un corso d'onore passato di manager legati al mondo del calcio, però mi sembra che non si siano fatti prendere immediatamente la mano, e questo no. Almeno va scritto a loro merito. È un buon segnale. Due cose ancora. La prima è una notizia, è uscita in questo istante: Drogba è stato punito con 2 giornate di squalifica per... Un classico. Ecco, per l'espulsione... Esatto. Ogni volta che il Chelsea esce dalla Coppa... delle giornate, cioè lui non comincia mai la Champions a settembre. Certo, quindi 2 giornate per il calcio a Thiago Motta nel finale di Chelsea-Inter. L'altra è una riflessione che fa Sergio, tassista milanese, che dice con tutti questi test a test in Europa... derivano dal fatto che ci sono i mondiali e tutti i signorini fuori classe delle grandi giocano a risparmio. Ecco, io trovo esattamente che sia il contrario. No, mi spiace non essere d'accordo con il nostro amico tassista, perché basta guardare a giocare Messi, Ronaldo, Sneijder, non so, ne butto lì 3 o 4 a caso. Guardate le partite del Manchester United e guardate come gioca Wayne Rooney, seri problemi al ginocchio. Se questo è uno che si risparmia, questo è uno che è stato accusato pubblicamente dal suo allenatore di essersi impegnato troppo in un amichevole nazionale. Quindi... È l'esatto contrario, cioè sono i vari Capello, Maradona, sono tutti i CT semmai che devono essere preoccupati, perché i più grandi, confermandosi tali, non solo non si stanno risparmiando, ma ci stanno dando dentro in un modo a volte persino eccessivo. Sì, anche se non ci sono più, per fortuna, dei commissari tecnici, oltretutto le squadre che sono quasi... Cioè, i blocchi non esistono più, perché si sono mescolate talmente tanto le squadre dopo la sentenza Bosman che i blocchi non ci sono praticamente più, e questo da un lato è negativo perché magari costringe il commissario tecnico a un lavoro supplementare, però in un altro lato è positivo perché comunque non è possibile avere 23 giocatori tutti impegnati alla morte fino al mese di maggio. Certo. e quindi tutto questo è un fattore importante. Molinaro scrive: un ascoltatore quest'anno veniva da un grave problema fisico, vero? Renale, se non sbaglio. Sì. E all'inizio non stava affatto bene, ma fisicamente vale 10 grosso. Sì. Sì. Sì, in questo momento sì, poi certo non ha la tecnica di grosso, ma la tecnica nel calcio di oggi salta fuori se corri, e mi sembra che... Sì, e poi grosso gioca in una zona di campo dove la tecnica è importante, ma è quasi più importante la corsa, perché se non hai corsa a fare il laterale può essere tecnico. In un momento difficile, individuale, collettivo e tutto il resto. Fabio, noi ci risentiamo giovedì per il bilancio. Sempre molto volentieri. Con mucho gusto. Grazie. Ciao Fabio. Ciao, grazie. Tocca a Marco, chiamato dalla provincia di Novara. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, sprecare dei complimenti per voi, poi avervi tutti e due insieme, uno come Fabio e uno come lei, mi rende molto orgoglioso oggi riuscire a parlare insieme a voi. Comunque. No, orgoglioso per il semplice motivo che se io sento il processo del lunedì sto 5 ore a sentirlo e poi non capisco cosa vogliono dire. Sì, non è un paragone estremamente lusinghiero, però insomma va bene, lo accetto prendendolo in una chiave positiva. Dica. Allora niente, io volevo sapere, ma ci può spiegare che cosa vuol dire questa nuova regola che Platini vuole mettere alla società per quanto riguarda il tetto dei giocatori che si possono comprare? Cosa si intende? Uno fino a quanto può spendere? C'è un tetto fino a quanto può spendere? Dipende da quanti punti guadagna? Dipende dall'equilibrio dei bilanci, dipende da un rapporto, da un equo rapporto tra entrate e uscite. Io uno di questi giorni glielo faccio rispiegare per bene da Marco Bellinazzo, che è il nostro esperto del Sole 24 Ore, che segue per l'appunto questo genere di vicende. L'ha già spiegato, lo spiegherà ancora. Stavo cercando una notizia di oggi su questo tema, perché Platini ne ha pensato. Eccola qua. L'UEFA è intenzionata, questo è uno sviluppo ulteriore, è intenzionata ad appoggiare la proposta del governo britannico di riservare una quota azionaria fissa dei club calcistici ai tifosi. È un articolo che ha scritto stamane il Guardian, e questa iniziativa è stata accolta con favore da Platini, leggo in questa agenzia, perché gli piace l'idea che i tifosi investano nel proprio club, anche perché sono loro in un certo senso a difendere l'identità. Poi in un certo senso vuol dire che si arriverà al massimo, secondo questo progetto, al 25%, e cioè non è che poi i tifosi si impadroniscono della società o pensano di essere gli unici legittimati a rappresentarla, perché sennò si arriva non alle storture ma alle abiezioni di cui parlavamo prima in ambito Juventus e di cui torneremo a parlare tra poco, mi immagino. Walter è in linea da Mantova, buongiorno. Sì, buongiorno, vorrei analizzare con lei il rapporto tra Mourinho e il confronto tra Mourinho e Ranieri. Penso che Mourinho sia facilitato dal fatto che ha un presidente che praticamente gli fornisce tutti i grandi giocatori che vuole in cinque secondi. Quaresma Ranieri compreso. Scusi? Quaresma compreso. Sì, perfetto. E Ranieri invece si è dovuto confrontare con una società la proprietà in chiara problemi economici e ha dovuto rivitalizzare i giocatori che aveva lì a disposizione, e però Cassetti, Perrotta e tanti altri li ha rigenerati. Adesso ci troviamo una squadra veramente in forma, e poi soprattutto vorrei considerare il fatto che Mourinho ha due partite in più rispetto a Ranieri, perché Ranieri è entrato nella terza giornata di campionato, dunque questo penso che sia un fattore importante, no? Certo, anche se poi ai fini della classifica finale non peserà, però ai fini del giudizio del lavoro che è stato fatto sino a qui, in questa stagione, dall'uno e dall'altro, mi pare che il suo peso ce l'abbia, e come, e che lei l'abbia giustamente colto. Poi ho un buon ritaglio del mio amico Di Pollina, interista ad hoc, a proposito di Mourinho e della sua gestione stagionale e in particolare della più recente. Torniamo in onda con qualche notizia e qualche messaggio vostro e soprattutto con i vostri interventi in diretta. Intanto le sanzioni al giudice sportivo, che comunque come sempre sono spiacevoli, ma insomma, perché poi si finisce sempre a punire lo stesso genere di intemperanze o di reati veri e propri. La Roma e Lazio hanno pagato un conto abbastanza salato alla partita. La Roma 25.000 euro per cori razzisti verso i giocatori dell'Inter, lancio di bottigliette, accendini, fumogeni, petardi. La Lazio 15.000 euro di ammenda per gli urlati contro Seedorf, più alcune altre cose momento. Poi c'è il Livorno 15.000 euro per petardi, insomma, grosso modo sempre la stessa. Ripeto, lo stesso menù, purtroppo. Mentre la motivazione della squalifica fino a 20 aprile di Bettega è per aver rivolto reiteratamente espressioni ingiuriose all'arbitro nel sottopassaggio che porta agli spogliatoi durante l'intervallo della partita di ieri, perché la notizia di ieri, contro l'Atalanta. Da notare che nel primo tempo nessuno, credo nemmeno nella curva agli ultra, ha notato qualcosa di, ma semplicemente di segnalabile da un punto di vista arbitrale, a danno o a vantaggio di alcuna delle due squadre. Luca è in linea da Milano, buongiorno. Dottor Ganzini, buongiorno, mi scuso per l'emozione e complimenti per la trasmissione. Emozione. Senta, intervenivo a proposito di una cosa che non so se è già stata dibattuta, nel caso me ne scuso. Mi incuriosisce il fatto di aver rivisto il signor Moggi presente a diverse trasmissioni, e in questo periodo, complice la crisi della Juventus, ho sentito da più parti invocarne in qualche modo il ritorno in squadra o vagheggiarne, insomma, il rientro a pieno titolo, a riprendere in mano le redini della direzione tecnica dei bianconeri. Ora, io se fossi un tifoso juventino mi direi questo. In due parole, il signor Moggi avrà contribuito sicuramente, non essendo un intenditore di calcio, almeno in buona parte, a costruire negli anni passati una squadra di valori tecnici indiscussi. È anche vero che ha inficiato, penso, con i suoi comportamenti molti dei risultati sportivi che la squadra forse avrebbe ottenuto anche senza i suoi servigi. In secondo momento, soprattutto quest'ultimo punto rimarco, la crisi tecnica che secondo me la Juventus sta vivendo è dovuta in buona parte allo smantellamento della squadra susseguente ai suoi comportamenti. Io, se fossi un tifoso juventino, mi guarderei bene dall'invocare il rientro nel calcio di un personaggio del genere che gli ha rovinato la squadra per molti anni venire, oltre a tutto quello che ha preceduto. La ringrazio e l'ascolto per radio. Grazie a lei, Luca. Io credo che Moggi e Giraudo dovrebbero essere gli idoli degli anti-juventini, non degli juventini, ma lei sa come siamo abituati a ragionare da queste parti, e quindi non si stupisca oltre certi limiti. Magari cambi frequentazioni televisive, insomma, visto che mi ha detto che le è capitato spesso, questo dovrebbe farla forse interrogare sul buon uso che lei fa del suo tempo libero. Pietro da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Dica. Io volevo, riallacciandomi a quello che si diceva ieri, parlare un attimino per quanto riguarda il pubblico, tifoserie e tutto il discorso lì. Io sono abito a Milano e tifo la Roma, no? E volevo chiedere se la gente sapeva cosa voleva dire per uno di Milano prendere un biglietto per la Roma quando magari c'è il divieto di acquisto dei biglietti per chi viene da fuori regione, fuori provincia. Cioè, io veramente in un calcio e in un mondo che va verso, appunto, non so come dire, la libera circolazione, mi sembra di tornare indietro di 10 anni fa. Cioè, avere questi limiti mi sembra veramente ridicolo. Se ci sono problemi di ultras, teppisti, queste cose, teppisti, perché l'ultras lo intendo come un tifoso, e beh, che si prendono provvedimenti, perché non è che per colpa di 4 ragazzi che tirano petardi e robe del genere. Sì, facciamoli 4.000 magari. 4.000, quanti sono? Io non è che non posso. No, neanche io, guardi, non li ho mai contati e non frequentando più. Io sabato ero a vedere Roma-Inter e anche lì, sai cosa ho dovuto fare per dire, in barba a tutte le leggi? Io ho preso un biglietto del settore ospiti qua a Milano e poi a Roma ho chiesto a uno steward se gentilmente gli ho spiegato la mia situazione e mi faceva entrare, e gentilmente mi ha fatto entrare. E mi capita spesso di dover far così. Meno male trovo persone che capiscono, io fossi uno steward farei entrare una persona nelle mie condizioni, però non è che si può, cioè io veramente dicono che il modello inglese, ma se non sbaglio il modello inglese vieta anche giornali solo sportivi, cioè nel senso ci sono tante cose, non è solo il fatto di... Sì, certo. Questo, io veramente questo. Far capire cosa vuol dire trovare un biglietto per me, oppure a Milano gioca la Roma, no, devo prendere per forza il settore del non posso andare, cioè veramente. Ma riguarda tutte le tifoserie, perché sono dei divieti astrusi in un modo impossibile. Tutti ci dicono e ci raccontano che dall'anno prossimo, con la tessera del tifoso, ogni e qualsivoglia genere di problemi sarà risolto. Beh, insomma, vedremo, perché ne ho già sentite di migliori rispetto alla tessera del tifoso. Corrado Regazzo scrive: non le sembra che la camminata di domenica di Pazzini sul corpo dell'avversario a terra meritasse più attenzione da parte del giudice sportivo? Sì, caro Corrado, mi sembra che ne meritasse molta, ma molto di più, anche perché la camminata sull'avversario a terra era successiva ad una serie già di atteggiamenti arroganti e poco, di atteggiamenti prepotenti che Pazzini stava mantenendo anche sotto gli occhi dell'arbitro nei confronti dell'avversario. Quindi a maggior ragione mi sarei aspettato non tanto da giudice sportivo, perché non è lui che lui valuta la prova televisiva se la procura federale gliela richiede, da parte di questi che passano 4-5 ore a partita, per ogni partita, al lunedì a scandagliare se qualcuno ha detto zio o ha chiamato in causa, è successo anche domenica scorsa, a Del Piero, un noto animale domestico che è stato accostato, vabbè, avete capito, ore a scandagliare queste cose per poi naturalmente punire i pesci piccoli e lasciare andare quelli grossi, perché sennò non saremmo noi, e invece questi che scalciano un avversario a terra la fanno franca, forse perché, ripeto, è tale la fatica estenuante di cogliere il labiale che poi quando cogli la pedata, ma chi se ne frega, tanto quello che conta è il catechismo, non è il fatto che la partita sia più o meno arbitrata in maniera regolare. Daniele Pavia, buongiorno. Buongiorno Garanzini, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, io volevo una sua opinione su Zaccheroni. Io domenica ho sentito un'intervista fatta da un vostro collega, credo fosse di Radio 1, mi è stata riferita come cosa, che gli ha domandato il perché non c'era in campo Buffone e Chiellini. La risposta di Zaccheroni è stata questa, ha detto che il giorno prima lui ha preparato la partita con Buffon e Chiellini in campo e che alla domenica sono risultati indisponibili senza che lui sapesse quasi perché. Questo è quello che ha dichiarato lui, nel senso, non so, l'ha reputo forse una mancanza di dialogo oppure una mini rottura, volevo chiedere il suo parere su questo, diciamo. Non capisco la domanda sinceramente. Zaccheroni non può aver detto che ha preparato la partita con Buffon in campo, perché Buffon stia fuori ancora per un po', lo sapevano tutti, dunque posso presumere che lo sapesse anche Zaccheroni, no? Così a grandi linee. Non so se per caso invece Chiellini i medici gliel'avessero dati in un primo tempo per abile e poi invece all'ultimo momento Chiellini non abbia recuperato. Queste sono cose che succedono più o meno in tutte le società. Poi è chiaro che alla Juve quest'anno, se parliamo di infortuni, succedono in maniera certamente superiore, anzi direi esponenziale. E un'altra cosa da tenere presente è che Zaccheroni, povero, tanto è ereditato una situazione tra il difficile e l'impossibile, secondo è normale che in qualche occasione, insomma, si arrampichi sulla vetrata della dialettica e si senta ogni tanto, no? Che l'unghia sta facendo un po' fatica sul vetro, ma insomma credo che sia abbastanza normale in queste situazioni. Lorenzo Germani, bella mail. L'immagine che hanno dato i tifosi durante la contestazione alla Juventus si commenta da sola, ma quella di Melo che dopo il gol decisivo si scusa con i tifosi in curva è ancor più desolante e la dice lunga sulle condizioni in cui è ridotto oggi il nostro calcio. Anche qui mi tocca essere d'accordo con questo ascoltatore. Paolo in linea da Parma, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno. Io semplicemente chiamo per dirle che lei continua a ripetere che comunque sia la bestemmia in campo non è una cosa di particolare rilevanza. Io dico semplicemente non sono d'accordo, perché penso che per educare i giovani sia importantissimo anche quello. Quindi lei dice che la camminata su Pazzini sia importante, la camminata di Pazzini. Però penso anche che far sì che i giocatori abbiano un pochettino più di rispetto nei confronti di, non so, degli avversari stessi, ma anche del cosiddetto signore, penso sia una cosa importante che può, ma no, ma Paolo, può educare. Questo è fuori discussione. Io me la prendo con le priorità e con le precedenze e soprattutto con le mode. No? È entrata in vigore questa norma, per una settimana o due abbiamo fatto ridere il mondo, letteralmente ridere il mondo con la lettura dei labiali. Adesso di settimana ne sono passate altre due, i giocatori sono tornati a bestemmiare esattamente come prima, e la prova televisiva, e le ripeto, se vuole le faccio anche delle citazioni di personaggi piuttosto illustri, e la prova televisiva già non viene più applicata. Queste sono buffonate. Allora è in questo che io dico che se vogliamo continuare così la strada, la comicità è segnata. Non è certamente questo un modo di avallare o peggio ancora approvare i bestemmiatori pubblici. È un discorso un po' diverso, mi pare, spero di essere riuscito a farmi capire. Se non ci sono riuscito me ne scuso, ma questo è il concetto. Qualcuno mi ha raccontato, scrive Luca da Roma, che a fine primo tempo domenica scorsa Grosso è uscito dal campo con un cellulare all'orecchio tra il primo e il secondo tempo. Vi risulta? L'ho letto anch'io, io sinceramente l'ho letto, non so, tutto quello che posso fare è augurarmi che non sia vero. Se fosse vero mi sta venendo in mente che un direttore generale, invece di andare a insultare l'arbitro, potrebbe magari cominciare a dare un'occhiatina sull'uso improprio di un cellulare tra un tempo e l'altro. Però sinceramente io faccio un po' fatica, l'ho letto, ripeto, ma faccio un po' fatica a credere che una cosa del genere possa essere vera. C'era una segnalazione di ricezione, sì, ecco, quelle che insomma, che mi fa piacere segnalare immediatamente. Problemi di ricezione nella zona di Savona, allora segnalo immediatamente ai tecnici, anche per l'alto numero di ascoltatori e di amici in particolare della zona di Savona, di Bergeggi, di Vado, eccetera eccetera. Dunque dobbiamo ripassare a questo punto la storia. Il 30 marzo, nello scandaglio di Nicola Filippone. Sembra ieri. 30 marzo 1955. In un'amichevole disputata a Stoccarda, la nazionale italiana riesce a sconfiggere per 2-1 la Germania Ovest, campione del mondo in carica, guidata in panchina da Sepper Berger e in campo da Fritz Walter. Il gol decisivo lo realizza un esordiente assoluto, Gino Pivatelli, giovane centravanti del Bologna. Pivatelli riceve un pallone dal romanista Galli, brucia sullo scatto i difensori, dribbla il portiere e deposita il pallone in rete. La nazionale festeggia così con un successo di prestigio la 200ª partita disputata. Gino Pivatelli da Sanguinetto, provincia di Verona. No, ho sentito anch'io l'intervista, scrive un ascoltatore. Zacca ha proprio detto che in porta deve esserci Buffon. Ragazzi, io non lo so, mi arrendo. Credo che si siano resi in tanti a proposito di cose bianconere quest'anno. In questo caso mi arrendo anch'io. Michele da Verona dice: ma meno male che il pesteggiato, che non è male, cioè quello pestato da Pazzini, non ha tirato in causa, non si è lasciato andare da un punto di vista esclamatorio, perché sennò la squalifica la beccava lui. Su questo credo ci sia poco da dubitare. Dunque, questa l'abbiamo sentita, la lettura. Allora, prima di dare spazio a un ascoltatore della provincia di Mantova e a uno da Novara. Antonio Di Polina, critico televisivo di Repubblica, militante, nel senso che è presente ogni giorno con le sue analisi sulle trasmissioni televisive, è nostro ospite spesso ed è un vecchio nome, insomma un cuore nell'azzurro di quelli abbastanza inattaccabile. Nella sua rubrica sulle pagine milanesi del martedì scrive oggi, tra l'altro, e lo trovo di particolare interesse perché è una riflessione che mi pare pochi abbiano fatto negli ultimi tempi, che è questo: bisognerebbe risolvere infine un'altra questione, ha già parlato di molte altre. Se il Mourinho di sempre, quello tonitruante e casinaro a ogni costo, lo faceva per proteggere la squadra, questo muta oltranza, che fa? Manda la squadra allo sbaraglio e se ne frega della sua protezione? È possibile trovare un po' di equilibrio ogni tanto? E come starà lo special dopo aver subito un trattamento alla Luttazzi da uno a cui aveva dato del vecchio scemo? Gli sarà venuto in mente il dubbio che forse conviene cambiare registro in futuro? Beh, per essere un interista militante, questa mi sembra una riflessione da segnalare. Rino, provincia di Mantova, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io vorrei sapere, capire cosa fa Moratti all'Inter. Ha capito cosa voglio dire? Forse. Dunque, la prima risposta che mi viene in mente è che qualche liretta in questi 15 anni l'ha cacciata, così, ecco. Tanto per giustificare la sua presenza. E poi mi sento dire da Balotelli e Mourinho che si vogliono le scuse, io non voglio le scuse, io ti voglio le scuse, ma l'interesse della squadra dov'è andato a finire? L'interesse per la squadra dove è andato a finire, da parte di tutti, anche al limite anche di Moratti si può fare questo discorso, perché è impossibile per uno interista come me sentire che praticamente l'interesse per la squadra è l'ultima cosa che viene lì. Sì, io sono abbastanza d'accordo con lei, sinceramente. Questa è una vicenda grottesca che discende dal potere smisurato che la società ha lasciato a questo tecnico. Ne aveva già molto prima, dalla vittoria di Londra in poi, con tutti i meriti che indubbiamente ha avuto nel costruire questa vittoria, però insomma gli hanno evidentemente lasciato una carta bianca che non credo abbia molti precedenti. E soprattutto è un genere di carta bianca che poi si sta rivelando, si è già rivelata autolesionista. Adesso io non avevo capito la domanda iniziale perché non sapevo dove voleva andare a parare. Mi pare che per l'appunto dalla società e da presidente in particolare sia arrivato un caldo invito a trovare un modo di farla finita, ma è indubbio che questo invito arriva in ritardo da una parte, e dall'altra non è abbastanza caldo, perché secondo me, visto che i quattrini è lui che no, alla fine li garantisce, forse anche con un tono un pochino più alto e con qualche giorno di anticipo si poteva fare. Francesco Novara, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono d'accordo con lei sulla bestemmia, ma mi spiego perché io sono contrarissimo da cattolico, però secondo me il modo come viene acquisito, cioè nel momento in cui viene letto il labiale, c'è un sistema intrusivo nella sfera del calciatore. Allora faccio un esempio tipico, no? È chiaro che se io bestemmio ad alta voce, mi sente mezzo stadio, mi sentono i colleghi di calcio, lo capisco, ma questo sistema intrusivo, cioè secondo me è insostenibile, sarebbe anche secondo me giuridicamente inaccettabile, perché quella non è una bestemmia pubblica. Verissimo, al punto che la Corte di Giustizia Europea è intervenuta, facendo inorridire il nostro povero Presidente Petrucci, è intervenuta dicendo che questa cosa integra una violazione della privacy e comunque mettendola su un piano strettamente giuridico, come dice lei. Poi è chiaro che ci sarebbero cause più nobili, no? Per cui difendere il diritto alla tutela della propria privacy, e fin lì spero che anche lei sarà d'accordo, immagino che saremo d'accordo tutti. Però per dire questo, come sia stata tirata per i capelli dalle nostre parti questa vicenda, e mi pare che lei abbia esattamente colto questo. Ci sono immagini, scrive Carlo da Spoleto, di grosso al cellulare. Purtroppo e per fortuna, scrive Carlo. Mentre invece Davide si domanda, ma dov'è il problema se uno usa il cellulare? Che ne sapete con chi stesse parlando? La vostra è facile demagogia. Davide, lei è fuori con la testa, mi scusi se glielo dico, ma stiamo parlando di un calciatore che ha finito il primo tempo e si attacca al cellulare. Cioè, ma questo è il livello di concentrazione di un professionista da, sto leggero, 3 milioni di euro l'anno. Ma secondo me questa è una delle più grosse che ho letto e ho sentito in vita mia, giuro, perché cioè, quando Capello è arrivato nel ritiro all'Inghilterra e li ha visti usare il cellulare a tavola, già è diventato pazzo, l'ha sentito sbraitare oltre il Tamigi, e il giorno dopo era pronto un decalogo per cui l'uso del cellulare è limitato severamente a eccetera eccetera eccetera. Questi cosa fanno? Parlano al cellulare uscendo dal campo. Secondo me viviamo in un manicomio a cielo aperto, e non da oggi, se per quello. Adriano da Pesaro, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. No. La mia è una riflessione molto, molto veloce. Io vado spesso allo stadio e piacerebbe andare più volte con i bambini, perché lo stadio è comunque uno spettacolo. Però purtroppo sono le cose come sono successe a Roma e come sono successe anche a Milano sabato sera, dove poi un giudice squalifica la tifoseria. E la stessa tifoseria poi viene permessa, come nel caso di domenica, di trasferirsi a Bari in massa. Quindi questa qui è solo una riflessione, cioè come si può da una parte punire per certe cose che combinano lo stadio e poi dall'altra gli si permette di andare allo stadio in massa. Tutto qua. Adriano, anche qua niente di nuovo sotto il sole. Lei ricorderà 2 anni fa il divieto di trasferta che prefetti e massime autorità dello Stato intimarono ai tifosi dell'Inter per la partita di Parma, la partita decisiva. Lei ricorderà che i tifosi dell'Inter non solo regolarmente furono presenti allo stadio dopo aver menato quello che c'era da menare in giro prima e sfasciato un asilo, già che c'erano per meglio trascorrere la vigilia, ma alla fine invasero anche il campo. Non ricordo sanzioni nei confronti di quella tifoseria. 14:57 puntuali dunque, grazie a Fabio Cantadoni in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione, ci risentiamo domani.